giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Numeri da record nelle località sciistiche durante le vacanze natalizie e solo gli accessi agli impianti segnano un più 30%. La politica a tensioni nel centrodestra, salta il vertice dell'Epifania, i contrasti sulle candidature ma anche su sanità e terzo mandato. In vigore il nuovo piano sicurezza sul lavoro varato dal Ministero, obiettivo creare una cultura sul tema fin dalle scuole. Il giorno dell'Epifania rinnova il rituale secolare della celebrazione della storica messa del Tallero a Gemona del Friuli, tutto pronto a Cividale per il rito della messa dello Spadone. Calcio dopo il pareggio contro il Verona, il secondo di fila, l'Udinese chiude il girone d'andata a quota 25 punti, 8 punti in più della passata stagione. Basket e Trieste si impone nel supplementare sul parquet di Scafati e si qualifica per le Final 8 di Coppa Italia. In Serie A2 Udine perde a Bologna, Cividale batte Pesaro con un grande reddito. Divo, autore di 38 punti. Le 8 e 31 minuti, questi titoli. Buongiorno e buona Epifania da Giorgio Bearz e Maria Spezia per questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia. E in particolare un bene alzati a quanti hanno trovato questa mattina la calza piena di sorprese portate la scorsa notte dalla Befana. Prima di cominciare diamo però, come sempre, uno sguardo alla situazione del meteo con le previsioni per oggi. Il cielo è da nuvoloso a variabile sulla regione. Queste le temperature registrate alle 7 a Trieste. 7 gradi, a Gorizia 5, a Udine 4 gradi, a Pordenone 3, a Tarvisio 5 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 5 decimi di grado sopra lo zero, a Fondi di Sopra meno 1 grado e 5 decimi, a Sappada meno 5 gradi, a Piancavallo 3 gradi e 5 decimi, sul Monte Lussari 1 grado, sul Monte Zoncolan meno 1. Passando la costa, a Grado ci sono 5 gradi e 5 decimi, a Lignano 4 gradi e mezzo. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi, cielo in prevalenza coperto, in giornata saranno possibili piogge sparse, deboli o moderate sulle zone orientali, che dalla sera saranno probabilmente estese su tutte le zone, con quota neve inizialmente a 500-700 metri circa, in innalzamento successivamente nella notte, possibili foschie o nebbie nelle zone orientali, specie sul Carso. Arrivati al 6 gennaio con la festa dell'Epifania, si conclude oggi il periodo delle vacanze natalizie e saranno in molti a tornare dalle località sciistiche della nostra montagna. Allora sentiamo il bilancio e le prospettive di questa stagione dello sci. Più di 140.000 primi ingressi complessivi nel periodo delle festività, con un picco di 24.886 sabato. Numeri da record, gli anni scorsi non si era mai andati sopra i 21.000 per Natale per i 6 comprensori sciistici della regione, facilitati da condizioni meteo e dalla neve ideali, che hanno consentito un aumento del 30% degli accessi agli impianti. Un successo per Promoturismo FVG, che però impone anche qualche riflessione. Con parcheggi, seggiovie, noleggi, rifugi e maestri presi d'assalto, si sono inevitabilmente create code e disagi, soprattutto nei due weekend. Il comprensorio di Tarvisio, ad esempio, ha fatto registrare 3 volte più di 8.000 ingressi, quando già oltre i 6.000 rischia di andare in difficoltà, soprattutto sulla seggiovia del Florianca. Discorso analogo sullo Zoncolan e a Piancavallo, le due località dove c'è più pendolarismo dello sci. Per Promoturismo, ipotizzare un numero limite di accessi durante l'altissima stagione non è un tabù. Le località intanto brindano alla chiusura del primo periodo di alta stagione, occupazione degli hotel vicino al 100% indipendentemente dalla fascia di prezzo e utilizzo di seconde case e alloggi ai massimi. Diego Bellotto, presidente Confcommercio Tarvisio. Eravamo sotto le feste, Natale fino ad ora compreso, siamo stati letteralmente presi d'assalto, numeri molto importanti, molto contenti siamo. I numeri per gennaio, mese quasi interamente di bassa stagione, sono promettenti, con prenotazioni sia per le festività ortodosse che per le settimane bianche. Con l'Epifania si bloccano un po' le vacanze degli italiani e poi ci sono comunque tutti i paesi dell'est che hanno le loro vacanze successivamente, quindi i numeri sono confortanti, ecco. Tarvisio, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Bene le presenze turistiche anche a Trieste, anche se quest'anno non c'è stato il tutto esaurito nelle strutture alberghiere, nelle case vacanze della città giuliana. Trieste, città di overtourism, i campanelli d'allarme non mancano, come l'impennata dei prezzi del mercato immobiliare, fagocitato da strutture turistiche extraalberghiere. Sarebbero alcune migliaia le strutture turistiche a locazione breve a Trieste, gestite non solo da privati ma anche da società. In leggero calo invece i bed and breakfast. Un altro fenomeno dell'offerta turistica in crescita è la manodopera nel settore, in alcuni campi carente in numero o in qualità. Federica Suban, presidente FIPE regionale. Non era una città che aveva una formazione in questo senso, perché sappiamo che erano più formazioni a livello assicurativo, bancario, no? Anche i giovani si indirizzavano verso quel settore. Ora il settore turistico è trainante, perciò bisogna assolutamente investire con dei corsi di formazione anche post diploma per avere del personale assolutamente qualificato con la conoscenza delle lingue. L'obiettivo di ristoratori e albergatori è mantenere alta l'autenticità della proposta, che va dalla stanza d'albergo alla pietanza nel piatto. La gente richiede ovviamente il legame con il territorio a livello enogastronomico. Questo è un focus importante anche di collaborazione con i produttori locali, proprio per far sì che vivano un'esperienza tutto tondo della nostra città. Questo è mantenere un'identità, riscoprire quelle che sono le nostre origini, le nostre vecchie ricette, i nostri prodotti, perché questo fa la differenza a livello turistico. Il periodo di Magra pre-Covid è un lontano ricordo, ma a generare interesse per la città sono proprio i ricordi e racconti di chi è emigrato all'estero, che vogliono essere rivissuti dai loro discendenti. Turisti stranieri, ma che vengono a ritrovare le origini, cioè molti immigrati, soprattutto anche destinazioni come Australia, Sud America, che vengono a Trieste e cercano i posti dove avevano sentito parlare dai loro nonni. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. La pagina politica, c'è tensione nella maggioranza di centrodestra, è stato annullato infatti il vertice che doveva tenersi appunto per parlare delle candidature per le prossime elezioni comunali a Pordenone e a Monfalcone. Sono tensioni innescate non solo dalle scelte sui sindaci ma anche da sanità e terzo mandato, 4 in tutto i comuni al voto, data probabile il 13 aprile. Non tutti i giochi sono fatti per le candidature a sindaco di Pordenone e di Monfalcone, le due partite elettorali più importanti che si giocano nel 2025. In particolare nel centrodestra ci sono ancora nodi da sciogliere e la riunione attesa per la sera dell'Epifania, che doveva essere decisiva, a sorpresa è saltata. La spia di alcune tensioni ancora da allentare e che vanno oltre la partita elettorale per arrivare a temi come la sanità e il terzo mandato. Per restare alle elezioni il problema è Monfalcone, dove il nome in pole position è quello del leghista Luca Fasan, oggi assessore nella città dei cantieri, ma che non ha ancora avuto il via libera da tutta la maggioranza. Dovrebbe vedersela con Diego Moretti, capogruppo PD in consiglio regionale, che ha ufficializzato la sua candidatura fin da novembre. Tutto più chiaro a Pordenone, dove per il centrodestra il candidato sarà, a meno di colpi di scena imprevedibili, il consigliere regionale Alessandro Basso, che ha avuto prima di Capodanno il via libera dai segretari di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Noi Moderati. Per il centro-sinistra è già in campo Nicola Conficoni del PD. Nei primi giorni dell'anno un vertice che ha coinvolto, oltre ai Dem, la Civica Bene Comune, Italia Viva e il Movimento 5 Stelle, ha confermato l'appoggio a una candidatura che registra il sostegno anche di Open Sinistra FVG con il consigliere regionale Onsel. In campo ci sarà anche Anna Ciriani, che ci riprova con la sua civica Amiamo Pordenone. Altro tema ancora sul tappeto nel centrodestra, la data delle elezioni, che deve essere stabilita dalla Giunta, con il 13 di aprile che sembra il giorno più accreditato. Oltre a Monfalcone e Pordenone vanno al voto anche San Pier di Sonzo, dopo l'improvvisa morte in ottobre del sindaco Claudio Bignolin, e Nimis, dove nello scorso aprile si dimisero 9 consiglieri comunali su 12, facendo cadere l'amministrazione. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Spaziano dalla ricerca di personale per il reparto di riabilitazione cardiologica e neurologica dell'ospedale San Michele di Gemona all'allestimento di un pronto soccorso e all'acquisto di un nuovo macchinario TAC. Stiamo parlando delle richieste dei comitati gemonesi a difesa dell'ospedale, che in mattinata esporranno i loro striscioni in via Bini. Contro il triste fenomeno delle morti bianche, il Ministero del Lavoro lancia un nuovo progetto per promuovere la cultura della sicurezza fin dalle scuole. Polemici però i sindacati, che sottolineano di non essere stati coinvolti nell'iniziativa. Un decisivo cambio di passo è l'obiettivo del nuovo piano integrato per la salute e la sicurezza sul lavoro, varato dal Ministero del Lavoro a fine dicembre e attivo dal 1 gennaio di quest'anno. Il principio è superare l'idea che la sicurezza sul lavoro sia soltanto un adempimento normativo, sviluppando anche nelle scuole una cultura sul tema. E così sono previsti concorsi sulla sicurezza per i giovani e percorsi di aggiornamento per docenti, oltre a giornate dedicate ed eventi. Sul versante pratico, per le imprese ci saranno incentivi per aiutarle ad aderire alle norme di sicurezza, mentre i controlli di vigilanza saranno preceduti da un'approfondita attività di intelligence per individuare le situazioni più gravi e più a rischio. Tra le iniziative promosse per il mondo agricolo è previsto un controllo basato anche sul monitoraggio satellitare, mentre per i cantieri si propone il badge virtuale per segnare le presenze dei lavoratori. Ad attuare il piano sono chiamati INAIL e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con le modalità operative che riterranno più opportune. Si avvarranno del SINP, il Sistema Informativo Nazionale, per coordinare lo scambio di dati. Se l'obiettivo è condivisibile, spiega Cristiano Pizzo della CISL del Friuli Venezia Giulia, colpisce che non siano coinvolti i sindacati. In regione siamo abituati a confrontarci con le istituzioni su questi temi, a partire da documenti come la Carta di Lorenzo, e il piano sembra mancare, dice, di concretezza. Per Massimo Minene della UIL regionale, l'esclusione dei sindacati, ma non solo, dimostra la mancanza di volontà da parte del governo di un confronto con le parti sociali e con le diverse realtà dei territori. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Per celebrare l'Epifania, a Trieste in calendario la cerimonia della benedizione del mare organizzata dalla comunità greco-orientale. La celebrazione prevede un'uscita in pompa magna dalla chiesa di San Nicolò alle 11.45 con accompagnamento della banda musicale Refolo per arrivare al Molo Audace e gettare la Santa Croce in mare affinché le acque siano benedette. Durante la funzione alcuni fedeli possono tuffarsi in mare per riprendere la Santa Croce, ritenendo con questo gesto di ottenere una particolare benedizione. Alla celebrazione presenzierà Sua Eminenza Reverendissima Metropolita d'Italia, il Santissimo Policarpos. A Pordenone, in occasione dell'Epifania, il Vescovo Monsignor Giuseppe Pellegrini celebrerà la tradizionale Messa dei Popoli, animata dalle comunità cattoliche, dei fedeli immigrati e di lingua straniera residenti nella diocesi, con inizio alle 11.30. La celebrazione sarà curata dal Servizio Diocesano per i migranti, per rendere visibile l'universalità della Chiesa con canti e preghiere propri dei diversi paesi d'origine. Rinnova un rituale secolare la celebrazione della storica Messa del Tallero a Gemona del Friuli, appuntamento epifanico che prevede un corteo storico con dame, cavalieri, armigeri popolari, con partenza dalle gradinate della chiesa di Santa Maria delle Grazie alle 10. A seguire, alla loggia del municipio, si terrà la proclamazione del Tallero, offrendo simbolicamente un tallero d'argento all'arciprete, a rinnovo della sottomissione del potere temporale a quello spirituale, a conferma dei rapporti tra comunità e chiesa e oggi ad accentuazione dello spirito di comunità e di identità. Seguirà la Santa Messa del Tallero con l'accompagnamento del coro Glemonensis nel Duomo di Santa Maria Assunta alle 10.30. Nel corso della giornata sono previsti spettacoli e animazioni medievali, in aggiunta al midile epifanico con la rappresentazione vivente dell'arrivo dei Re Magi e l'adorazione al Bambin Gesù all'Associazione Taboga 13 in via Osoppo dalle 18, che sarà conclusa da uno spettacolo pirotecnico. Ed è tutto pronto anche a Cividale del Friuli per il rito della Messa dello Spadone, con la cerimonia in Duomo e la successiva rievocazione storica, che rievoca i 659 anni della nascita di un rito liturgico durante il quale il sacerdote celebrante saluta i fedeli impugnando appunto con la mano destra la spada e con la sinistra l'evangeliario, simboli del potere temporale e spirituale del patriarca. Quest'anno il rito sarà concelebrato dall'arcivescovo di Udine, Monsignor Riccardo Lamba, e da Don Livio Carlino, con inizio alle 10.30. Alla fine della celebrazione ecclesiastica seguirà la rievocazione storica in costume con centinaia di figuranti. Il corteo è previsto in Porta di Ponte, Corso Paolino d'Aquileia, Piazza Duomo, Largo Boiani, Piazza Foro Giulio Cesare, Via Silvio Pellico, Piazza Diaz e Piazza Dante. Nel pomeriggio, dalle 14.30, seguirà la festa a tema, con diverse attività di animazione medievale, dai duelli di armeggio medievale alle rullate dei tamburi. In occasione dell'Epifania si è rinnovata anche quest'anno in regione la tradizione dei fuochi epifanici. Il circolo culturale Chiarisacco accenderà il fuoco epifanico del Pignarul 2025 nel parco a ridosso della piazza della Fontana San Giorgio di Nogaro dalle 17. In caso di maltempo l'evento sarà rimandato alla domenica successiva. E sarà una calata da un centinaio di metri, quella degli speleologi della Commissione Grotte Eugenio Boigan della Società Alpina delle Giulie, sezione di Trieste del Club Alpino Italiano, compiuta dalla Sommità località della grotta gigante di Sgonico per raggiungere poi il pubblico sul fondo della grande caverna. In occasione dell'Epifania la calata sarà compiuta con i costumi della Befana, dei Re Magi, di Babbo Natale, della Stella Cometa e dei mitici Muccocervi, i fantastici abitanti della grotta. In conclusione, dolcetti caramelle per i più piccoli e Gran Pampel, bevanda alcolica calda dalla ricetta segreta preparata dai tradizionali vichinghi. Appuntamento alle 15, l'accesso è limitato a 900 ingressi, garantito solo con l'acquisto del biglietto online dal sito della Grotta Gigante www.grottagigante.it. A conclusione del dicembre goriziano, una Befana acrobatica in compagnia dei Re Magi si calerà da una trentina di metri dal campanile della chiesa di Santa Maria della Misericordia in via Pola Campagnuzza alle 17.30. Per i più piccoli, previste le immancabili calze con i dolciumi, appuntamento alle 17.30. E siamo allo sport con il calcio. Il secondo pareggio di fila per l'Udinese al Bentegodi contro l'Hellas Verona chiude il girone d'andata dei bianconeri a quota 25, 8 punti in più della passata stagione, ma si guarda già al futuro con discreto ottimismo, aspettando qualche operazione dal calciomercato. 25, 7, 4, 8, 23, 28, 6 numeri magari da giocare per i tifosi friulani. Erano quasi 1700 al Bentegodi e si sono fatti sentire. L'Udinese chiude il girone d'andata a quota 25, 8 punti in più della passata stagione. Sono quanto sperava all'inizio la società e forse ne manca qualcuno, come contro l'Hellas, perché la squadra di Runjajc meritava di vincere ma non ha sfruttato le occasioni e perché gli episodi arbitrali, in più di qualche occasione, non sono stati favorevoli. L'ultimo il tocco sul piede di Lovric che fa arrabbiare il direttore sportivo Inler. 7 le vittorie, 4 i pareggi e 8 le sconfitte, 23 gol fatti e 28 quelli subiti, forse troppi, i più pesanti contro il Torino, costati anche lì 2 punti. Un girone che fa vedere le qualità di Sava, chiamato a sostituire in porta l'infortunato Okoye, la crescita in mezzo al campo di Attà e l'affidabilità in difesa da subito del francese Solé, arrivato da svincolato. Operazione affari spenti che lascia intravedere ancora una volta grandi margini di guadagno per il club friulano. Mercato che riapre le sue porte, fino al 3 febbraio, finestra che non piace agli allenatori, troppi spifferi. Sentiamo il direttore sportivo Inler. Dobbiamo prima valutare i nostri, da vedere cosa succederà, però al momento siamo a posto così. L'interesse non confermato dell'Udinese sarebbe per Ciacua, laterale destro dell'Hellas, alternativa ad Esibue, sempre più titolare per Runjajc, ma che può crescere ancora. Abbiamo cambiato molto con il allenatore, con il direttore, con la squadra e adesso dobbiamo recupero e per il secondo tempo in stagione. La prossima sabato in casa dell'Atalanta, ormai una grande del campionato messa in difficoltà nella sfida dell'andata, con l'Udinese costretta a lamentarsi anche in quel caso di un mancato rigore. Non ci sarà Luca squalificato, toccherà Bravo con Sanchez pronto a subentrare. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Passiamo al basket. In Serie 1 Trieste ha vinto dopo un supplementare da brivido a Scafati per 107-110 e si è qualificata con un turno di anticipo al Final 8 di Coppa Italia. Con brivido, ma la pallacanestro Trieste si guadagna con un turno di anticipo la qualificazione nel Final 8 di Coppa Italia a Torino a febbraio. I biancorossi, trascinati da Valentine, rimontano una brutta partenza a causa di una pigrizia collettiva in difesa e con le triple dell'americano rientrano già nel secondo periodo lo svantaggio di 14 punti. La squadra di Christian, senza il centro Johnson, fermato dalla gastroenterite, procede a strappi e ogni volta che sembra riuscire ad avvicinarci concede a Scafati l'occasione di rimettersi nelle condizioni di andare avanti. Nel quarto periodo la rimonta che vale un finale thrilling punto a punto. Trieste sorpassa con Yutov da 3 sull'86-85. Ancora l'ala americana segna 14 secondi dalla fine il canestro che sembra valere la vittoria, ma una difesa insufficiente costa 2 punti dell'ottimo Gray, migliore in campo, e il pari che porta tutto al supplementare, dove ancora Valentine a decidere. A 22 secondi dalla sirena la guardia di Chicago sigla la bomba del più 4 da 9 metri. Poi sul più 7 a 9 secondi dalla fine Trieste si addormenta di nuovo e regala non solo 4 punti ma anche la tripla del potenziale pari ai padroni di casa. Il tiro di Stewart allo scadere però non entra, facendo dimenticare l'incomprensibile scelta di non commettere fallo prima del tiro. 110-107 con 27 punti di Valentine e 25 di Ross. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. In A2 Cividale batte Pesaro e si regala l'impresa, Udine invece perde a Bologna. Cividale si regala l'impresa, batte Pesaro che veniva da 5 vittorie di fila 97-86 e si qualifica alle Final Four di Coppa Italia a marzo. Protagonisti a turno i due stranieri, clamorosa la prestazione individuale di Lucio Redivo, autore di 38 punti, ben spalleggiato dall'americano Lamb, autore di 20 punti quasi tutti a inizio del terzo periodo, quando i ducali sembravano in difficoltà. La squadra di Pilastrini, priva di Miani e Marangone, con il baby Piccione in quintetto, è ridotta all'osso ma gioca con energia al servizio del talento non solo dell'argentino e del nuovo arrivato, ma anche di Francesco Ferrari. Il 19enne azzurrino si conferma uno dei giocatori più interessanti del panorama italiano, con 16 punti e canestri di fattura. Gesteco avanti quasi tutta la partita, grazie anche alla difesa sullo spauracchio Ahmad, tenuto a 20 punti, ma anche alla capacità di gestirsi. Nell'ultimo quarto in difesa molla un po' ed è graziata dalla mira scarsa della VL. Cividale chiude il girone d'andata a 24 punti e in Coppa Italia affronterà la leader Rimini. Cade invece a Bologna, sul campo della Fortitudo, Lapu Udine, partita a strappi, sempre però in sostanziale equilibrio. I friulani sotto canestro soffrono Freeman come previsto, ma trovano un sontuoso Ichi, ben spalleggiato da Johnson in attacco. I bolognesi senza l'americano Gabriel ritrovano un buon Aradori. I friulani avanti nel terzo quarto si spengono un po' a inizio del quarto periodo, consentendo ai padroni di casa di rientrare con gli assist di Fantinelli. Nel finale è un assist del playmaker per Freeman che appoggia sotto canestro a chiudere i giochi di fatto. 87-81 con i bianconeri che chiudono il girone di andata al secondo posto e intervengono sul mercato dei lunghi visti i problemi fisici di Pini, in arrivo da Trapani, l'italo-albanese Ray Pullazzi. Cividale del Friuli, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Per il volley femminile in Serie 1 pesante, sconfitta interna per le atlete del Talmassons che hanno ceduto alla squadra di Bergamo per 3-7-0, parziali 25-21, 25-20, 25-15 per le Lombardi. In A2 maschile oggi tocca la Tinet Prata, impegnata sul parquet dell'Omifer Palmi, con inizio alle 16. Scherma, la seconda giornata del trofeo Alpe Adria, la prova di Coppa del Mondo Under 20 di Scherma, al quartiere fieristico di Udine, ha visto il successo del la Cina nella gara a squadre di spada femminile. Le asiatiche hanno superato in una finale molto equilibrata la Francia con il punteggio di 35-34. L'Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nelle due prove individuali del circuito europeo Under 23 di Sciavola. L'Italia ha dominato monopolizzando i due podi. L'unico atleta regionale in gara, Cristian Colautti, ha chiuso al 52esimo posto. Con le gara a squadra si chiude oggi la tre giorni schermistica. La gara maschile vedrà il via i team di Austria, Inghilterra e Italia, mentre nella femminile si fideranno Italia e Inghilterra. Nel quartetto azzurro salirà in pedana anche il friulano Cristian Colautti. Cominciamo la rassegna stampa di oggi dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Trieste. RC Auto, aumenti in vista in Friuli Venezia Giulia, l'impennata maggiore a livello nazionale, tariffa media a 446 euro, crescita significativa dei costi in provincia di Udine, ma a pagare di più sono gli isontini. A centropagina la fotonotizia, ecco come sarà la nuova viabilità in Porto Vecchio, una veduta con il drone del Porto Vecchio e della nuova viabilità, la bretella di Largo Santos cambia senso e anticipa la futura mobilità dello scalo. L'ITIS incrementa le rette del 2%, ospiti sale l'età. Grotta gigante record, in 12 mesi 110.000 visitatori. E poi Nino da Trieste agli Stati Uniti diventando videomaker, rivedrò la mia città, dice Antonio Giannotti, 80 anni, scelse di partire da ragazzo per gli States, ricostruendosi una vita come meccanico e poi dietro una telecamera. Infine per lo sport, Pallacanestro Trieste con la vittoria a Scafati, c'è il pass per le Final Eight. I disaccordi politici in merito al terzo mandato, sanità ed elezioni amministrative aprono entrambe le edizioni del Messaggero che, come il Piccolo, informano anche sui rincari delle polizze assicurative. Altro titolo in comune è quello sui prezzi di biglietti ed alberghi per assistere alle Olimpiadi invernali di Cortina, con cifre come i 150 euro per le finali di curling, mentre i pacchetti ospitalità della Fondazione Milano Cortina per la finale di curling femminile partono da 4.000 euro per ingressi ed alberghi. La fotonotizia dell'edizione di Udine del Messaggero è per la vittoria di basket di Cividale, mentre il capocronaca interno informa sulle tariffe non ritoccate dell'azienda pubblica di servizi alla persona La Quiete di via Sant'Agostino, grazie al bilancio in positivo. Le due edizioni dei gazzettini aprono con un quadro delle aziende del territorio a fronte di diverse crisi di settore. Altro titolo in comune è quello sulle discordie nella politica regionale. La fotonotizia dell'edizione di Udine del Gazzettino è per la vittoria del Codroipo nella Coppa Eccellenza di calcio. Spazio poi agli avvicendamenti nelle parrocchie della Valcanale con l'arrivo di nuovi sacerdoti. Dal piccolo edizione di Gorizia e Monfalcone leggiamo la chiusura di cardiologia. Scatta la mobilitazione di comitati e sindacati che dicono Gorizia indebolita, cresce il fronte dei contrari. La CGIL dice si torni indietro, subito. I pensionati, l'assistenza è a rischio. La cattedrale mostra le sue bellezze, boom di visitatori, Duomo e Sant'Ignazio si svelano e boom di presenze per il tesoro. Oggi l'ultimo giorno per visitare la sacrestia in Piazza Vittoria, esposta alla veste indossata da Papa Wojtyła. L'opposizione a Ziberna, improvvisazione e poca concretezza. Il PD dice al sindaco sta improvvisando, non ha un'idea chiara del futuro. La replica all'intervista del maggior gruppo di minoranza in consiglio che dice la giunta è subalterna alla regione. Nel capocronaca di Monfalcone la cronaca con la violenza in centro, in quattro al commissariato, intercettati due bengalesi in fuga da altrettanti marocchini, uno dei quali è finito al San Polo per un trauma cranico-facciale. Il nuovo caso a quattro giorni dal pestaggio di Capodanno. E poi a centropagina la fotonotizia, i migliaia a grado per l'arrivo delle streghe del mare. La fotonotizia dell'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto è per il pane e vino della Comina che ieri ha dato responso positivo per il nuovo anno. Capocronaca interno, la fuga di personale dal comune a fronte di 96 uscite in 4 anni al netto dei pensionamenti. Spesso i dipendenti infatti partecipano ai concorsi della regione e in caso di esito positivo cambiano ente. Altro titolo in prima pagina, quello sullo stanziamento regionale di quasi 2 milioni e mezzo di euro in 3 anni per l'acquisto di allarmi e telecamere destinati alle abitazioni della destra a Tagliamento. L'edizione di Pordenone del Gazzettino ricalca la fotonotizia dell'edizione udinese ma in modo speculare, ritraendo il Tamai Calcio nella sconfitta contro il Codroipo nella partita di Coppa Eccellenza. Spazio poi alla questione dei parcheggi abusivi in Piazza della Motta, nonostante divieti e l'aumento delle contravvenzioni inflitte nei giorni scorsi. Alcuni appuntamenti di oggi in regione. In città sarà anticipata di una giornata la celebrazione della giornata del tricolore, festa della bandiera italiana, quest'anno giunta al 228esimo anniversario. Come da tradizione è prevista una sfilata per la Contrada Maggiore con accompagnamento dei bersaglieri dell'Associazione Nazionale Bersaglieri di Pordenone, di un tricolore lungo 85 metri per le principali vie cittadine, preceduta dalla fanfara di San Giorgio di Nogaro. Il corteo avrà inizio alle 10 davanti al municipio per terminare in piazza 20 Settembre, dove alle 11 si terranno le premiazioni di 5 istituti scolastici coinvolti nel concorso grafico letterario a tema sull'inno nazionale. I lavori saranno esposti fino al 15 gennaio al chiostro della Biblioteca Civica. In occasione del passaggio del tricolore, un'ordinanza della Polizia Locale di Pordenone prevede la sospensione momentanea della circolazione stradale dalle 9.30 lungo il percorso della sfilata fino al termine dell'evento. Facciamoci spazio a Spilimbergo e la campagna che sarà presentata al pranzo condiviso Prato Liberato, Parco Pubblico di quartiere nei prati di via Filandavecchia a Spilimbergo, in calendario alle 11, iniziativa che intende attirare l'attenzione sulla zona pubblica e che potrebbe essere venduta da demani a amministrazione comunale come edificabile e dare spazio a nuovi edifici. Proporrà le migliori canzoni degli anni 70-80 la tradizionale manifestazione Buonanno Trieste, giunta alla 43esima edizione, organizzata dalla Confcommercio Giuliana per augurare 12 mesi di serenità e crescita. Sul palco la Ceghedaccio Symphony Orchestra, i proventi della serata, a cui si potrà accedere con un'offerta minima di 15 euro, verranno devoluti in beneficenza. A Trieste, al Politeama Rossetti, appuntamento alle 20. La Befana del Vigile, l'evento organizzato dal Vespa Club Pordenone che consegnerà doni agli agenti della polizia per ringraziarli del lavoro svolto. Raduno a Pordenone in Piazza della Motta alle 9.30 per partire in una sfilata lungo le vie della città. Per consentire il passaggio della sfilata è istituito il divieto di sosta dalle 10 alle 11.30 in corso Vittorio Emanuele II e zone limitrofe. Nel pomeriggio in programma l'evento La Befana viene giù dal campanile di San Marco con calata della Befana dal campanile del Duomo di San Marco, organizzata dai Vigili del Fuoco di Pordenone alle 15.30. Il luogo magico è l'attività gratuita con laboratori, letture, racconti e giochi per bambini e famiglie in calendario a Sappada, Nevelandia, dalle 11 alle 14. Infine uno spettacolo, Il Fantasma di Canterville, è il film che la Wilm di Trieste Gorizia farà proiettare, ingresso gratuito a Trieste, questa mattina al Cinema Giotto alle 10.30. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezzi e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Bruno Montevecchi. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Noi ci risentiamo alle 12.30 per la seconda edizione del GR. A tutti voi l'augurio di una buona Epifania. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.